Come disse la sera stessa Alex a Rodriguez, il bel giardino di Viale Chateaubriand non aveva perduto niente del suo fascino, né gli specchi molati del loro splendore. La cooperativa dei costumisti era nata legalmente il 3 gennaio 1936, ma tra le quinte e nei camerini si continuava a darsi appuntamento da maschere. Tra gli strioni, i vecchi si stupirono un po' della scomparsa di Madi e dell'assenza prolungata di Victoria Jean. Poi, troppo presi da se stessi e dai propri riflessi, dimenticarono di stupirsi, dimenticarono perfino di notare il mazzo di semprevivi sotto il globo che sostituiva ormai l'illustrissimo dono imperiale. L'uovo di Fabergé non faceva più parte della casa e neanche Lucas. Era venuto lui a riprendere l'uovo del padre della signora da parte della signora. Aveva ripreso l'uovo, ma restituito la Citroën, la livrea d'autista padronale, il berretto e i gambaletti. La coupé per lui e Gildes? Oh no, grazie tante, non lo interessava. Avrebbero fatto i gestori, lui e Gildes, forse avrebbero preso Armel per lavare i piatti. Gestori del caffè accanto alla fabbrica dove lui lavorava prima. Il vecchio si ritirava e non aveva famiglia. Non si poteva rifiutare con l'alloggio e tutto il resto. Accanto a una fabbrica, maretta o no, si ha sempre sete uscendo. Sicché, per la coupé, alla vostra salute. Ma se si ha da essere padroni a metà, tanto vale esserlo a 2 piuttosto che a 25, no? Ginette dette alla livrea il numero 244 bis e la mise via tra le scorte. Fu sul punto di richiamare Lucas per chiedergli il numero 92, l'Anna Karienina, che non era mai tornato, ma non lo fece. Si disse che un giorno o l'altro Victoria sarebbe ben venuta a fare un giretto e che gliene avrebbe parlato allora. Ginette non portò mai la cappa di Zibellino. Appesa nella camera fredda dove si conservava lo stock pellicce, non c'era niente che la distinguesse dalle altre sotto la sua lunga fodera di rigatino nero. Solo che allora, quando si apriva la porta della camera, c'era lo stesso odore che in passato nel minuscolo camerino del Teatro Capucin. Non fu stampigliato nessun numero sull'imperitura fodera Mordoré. Ginette non ci teneva a noleggiarla. Non voleva neanche dire perché, ma quando la sollecitavano pronunciava quella frase: «Ah, lo zibellino è come l'opale o i garofani». Andò avanti così per un certo tempo. Poi lo zibellino finì per avere il suo numero di matricola come le altre pellicce. Porta sfortuna o talismano, rientrò valorosamente in servizio. La domanda era troppo alta. Il comodo tran tran di maschere era superato. La coupé prendeva velocità. Era accaduto senza pubblicità né scalpore, confidenzialmente, forse a causa dell'allegra risonanza della parola cooperativa divulgata dai nuovi, i giovani, che la preziosità di maschere bergamasche aveva dissuasi fino a quel momento dall'avventura nei quartieri alti. Si cominciava a vedere quei giovani in velluto a righe, non abbastanza ricchi per permettersi delle esclusività, ma che svaligiavano le scorte per spettacoli d'avanguardia che allestivano appunto in cooperativa anche loro. Alex ne era felice. Divertivano Ginette, lasciavano di gelo la signorina Agnès e stupivano la signorina Anita, che tutto stupiva da quando si era piazzata nell'ufficio salottino che era stato quello di Victoria Jean e di Maddy Varga. La stupivano e a volte le davano qualche preoccupazione. I divertenti cooperatori artisti tendevano a dimenticare di pagare la tariffa agli oscuri cooperatori costumisti. Allora lei diventava molto decisa, reclamava con la sua vocina e funzionava. Tutto funzionava. Tutto funzionava talmente bene con l'afflusso dei nuovi e la costanza dei vecchi che la signorina Anita suggerì l'assunzione di un nuovo socio, uno specialista, un pellicciaio. Alex si vergognò di non averci pensato da solo, ma fu lui a trasmettere la proposta a Stepan già l'indomani pomeriggio a Casa Bonnet. Stepan ormai si fermava di frequente in Casa Bonnet quando tornava senza aver trovato niente. Con le sue referenze in tasca stava cercando già da un pezzo, non mancavano gli indirizzi. Di pellicciai c'era richiesta, ma ogni volta si accorgeva che quasi sempre la domanda di nuovo personale corrispondeva a defezioni sulle quali i padroni rimanevano evasivi, per non dire completamente muti. Era chiaro che cercavano dei pellicciai, ma dei pellicciai crumiri. Persino alle Gallerie Lafayette, che lanciavano un SOS per chiedere d'urgenza dei lavoranti. Si era spinto anche fino al Nabab, ma non c'era entrato. Attraverso i vetri aveva riconosciuto Hiri. Poi, una mattina, solo nell'appartamento, senza dire niente a nessuno, con le sue proprie mani, aveva scritto una breve lettera per la signorina Anita a casa sua, in Rue Montsouris al numero 15. Si ricordava l'indirizzo perché quella Souris, che in francese voleva dire topolino, le andava a pennello alla signorina Anita. Nella sua letterina le chiedeva se non avesse del lavoro per lui, dato che aveva saputo che anche lei aveva lasciato Femina Prestige. Non le diceva che l'aveva saputo da Hiri, ma quando aveva capito che la signorina Anita era entrata nella cooperativa di Olga e di Sonia, si era rammaricato di averle scritto. Faceva mendicante, faceva addirittura ruffiano, pensò. E si pentì anche di aver spedito la lettera senza averne parlato prima con Elia. Ma era diventato difficile parlare da solo a solo con Elia, ora che avevano perduto i loro viaggi quotidiani. La signorina Anita non rispondeva e Stepan quasi se ne rallegrava. Dopotutto, chissà se abitava allo stesso indirizzo e se aveva ricevuto la sua lettera. Comunque, una volta aveva incontrato Alex e Alex non aveva l'aria di essere al corrente della lettera né della disoccupazione. Di sicuro Olga non aveva detto niente. Non le piaceva parlare di quello che era successo a Femina Prestige, se non con Sonia, che se ne fosse andato dalla Rue d'Aboukir l'aveva resa felice, addirittura felicissima, ma ora cominciava a preoccuparsi e si vedeva, e perciò si fermava in casa Bonnet, tornando dalle sue lunghe peregrinazioni attraverso Parigi. La rassicurava il vedere che cercava sul serio, che non era scoraggiato, che non passava le giornate dall'Alverniat. Prima si assicurava che non ci fosse nessuno nel salotto spogliatoio, poi entrava. Loro gli preparavano il tè e lui le faceva ridere, imitando i padroni che aveva messo alla porta e che non riuscivano a capacitarsi che fosse lui a chiedere le loro referenze circa il boicottaggio. Le faceva ridere, benché Olga un po' si sforzasse. Anche questo si vedeva. Allora cambiava conversazione e punzecchiava Zazà, Josette e Miriam, a cui Sonia e Olga facevano imbastire gli orli perché imparassero e perché loro due erano sovraccariche di lavoro. Sorseggiava il tè in cucina, sotto la mensola dove si allineavano i libri scolastici di Maurice e di Robert, che a volte sfogliava timorosamente e poi rimetteva rispettosamente al loro posto. Alla fine diceva: «Fra poco io torno a casa». «Tu non torni, papà, tu sali a casa», l'aveva corretto Zazà la prima volta sorridendo. «Io dico come posso», disse lui, ed allora lo ripeteva ogni volta. E ogni volta, salendo le scale, si diceva che non era assolutamente normale quell'idea di lavorare in casa, un'idea da donne, e che un laboratorio di donne non aveva assolutamente niente a che fare con un laboratorio di uomini. Per discutere la proposta di Alex erano saliti al secondo piano, il che conveniva perfettamente a Sonia e a Olga. Tra la gioia che esprimevano di sapere che forse Stepan avrebbe lavorato e il panico che tacevano al pensiero che forse sarebbe stato proprio lì, su uno dei loro tavoli, tra i loro piedi e alle loro spalle, avevano manifestato i segni di uno sgomento che Alex conosceva perfettamente ed era stato lui a suggerire una piccola vodka tra uomini nella cucina Roginski. Di sopra, dopo aver fatto sedere Alex nella stanza da pranzo di cui aveva accuratamente richiuso la porta, Stepan era andato a prendere la bottiglia e i bicchierini in cucina. Poi si era seduto a sua volta. Incuriosito da quel cerimoniale che si era svolto in un completo silenzio, Alex lo guardava fare, aspettando che parlasse. Quello che doveva dire aveva l'aria di essere delicato. Ci fu ancora qualche attimo di mutismo, poi Stepan si buttò. «Allora, ecco», disse mentre spalancava la mano sinistra sul cui mignolo premeva l'indice della destra. Alex riconobbe il gesto, quello al quale ricorrevano tanto spesso Olga e Sonia quando si accingevano a una lunga enumerazione delle loro lamentele, dei loro desideri e dei loro progetti. Prima di loro non aveva incontrato mai nessuno che si servisse del più piccolo e dell'ultimo delle cinque dita per sottolineare la precedenza accordata a una dichiarazione. Dalle sue parti, per questo, ci si serviva del pollice. In Rue de la Mar, del mignolo. Alex riconobbe dunque il loro gesto e la sua formula. L'allora ecco di Stepan era il contributo personale di lui, Alex, agli usi e costumi di Rue de la Mar. Sorrise e Stepan proseguì. Naturalmente, Alex non era obbligato a credergli. Dopotutto, anche se si erano intravisti spesso, non si conoscevano affatto, ma Stepan poteva giurargli sulla testa di Zazà che se c'erano due donne al mondo alle quali non voleva dare il minimo dolore, erano proprio quelle due di sotto. Una perché era sua moglie, l'altra perché era la moglie del suo amico, la seconda madre di sua figlia e praticamente la sua sorella. Dei milioni, se li avesse avuti, dei milioni avrebbe dato per non dargli mai un dispiacere. Eppure, Abbandonato il mignolo, Stepan era passato all'anulare. Eppure quegli stessi milioni che avrebbe dato per non dargli un dispiacere, li avrebbe dati anche per cominciare di nuovo a lavorare domani, stasera, in quello stesso momento. Anche questo Alex doveva sapere, che non si andasse a immaginare che Stepan sputava sul lavoro. Ma quello che stava per dire ora non lo poteva dire che a lui, ora o a Elia stasera, a loro mai, mai, né a Olga né a Sonia, perché loro non avrebbero capito e ne avrebbero provato solo dolore, il famoso dolore che appunto non si poteva rassegnare a dargli. Allora ecco, afferrò il medio e la pressione era talmente forte che tutta la mano sinistra ne fu scossa. Anche per milioni di miliardi non intravedeva la possibilità di lavorare, fosse pure per un'unica e breve giornata, in compagnia di quelle donne che era felicissimo di ritrovare a casa, ma che non avrebbe sopportato di avere a fianco dalla mattina alla sera nel loro posto di lavoro. Un posto di lavoro che, oltre a essere il loro feudo personale, era piazzato talmente male che scendendo a lavorare si sarebbe sentito come un profugo che si ospita per carità sotto il proprio tetto. Ragion per cui, in condizioni simili. Oh, capita proprio a proposito, lo interruppe Alex, che ora vedeva Stepan prendersela con l'indice sinistro per affrontare il quarto punto della sua dimostrazione. Davvero a proposito, l'aspettano in viale Chateaubriand, agli Champs-Élysées, signor Stepan. Agli Champs-Élysées, esclamò Stepan, come avrebbe detto New York. L'indomani mattina lasciò Rue de la Marpe e gli Champs-Élysées con la sua cartella e con Elia come un tempo. Olga si mise alla finestra della stanza da pranzo per guardarli allontanarsi e all'altezza dell'Alverniat Stepan si voltò per farle un cenno con la mano. «Sembra morissi il primo giorno di liceo», disse Sonia, che era venuta a raggiungerla alla finestra. «Purché vada bene laggiù», mormorò Olga, richiudendo la finestra. E fu con la coscienza appena offuscata che scesero insieme nel loro feudo, dal quale, senza osare dirlo a Stepan e neanche confessarlo a se stesse, l'avevano né più né meno cacciato. Stepan e Elia si separarono a Châtelet e fu su degli Champs-Élysées deserti, sotto un pallido sole invernale, che Stepan sbucò dalla stazione George V. Prese per la Rue Balzac, come gli aveva detto Alex. Nel riflesso di una vetrina, con le serrande ancora abbassate, controllò che il colletto della sua camicia non avesse sofferto del viaggio e fece i 100 metri che gli rimanevano da percorrere prima di scorgere il giardino e i suoi arbusti spogli. Era arrivato. Ora doveva affrontare la cosa più dura, un nuovo mestiere, in un nuovo laboratorio dove i compagni sarebbero state delle compagne. Pensò a Olga e a Sonia. Poi pensò per un attimo a Hiri, alla signorina Anita. Ciò lo aiutò a varcare la bella porta antica e a salire gli scalini lucidati che portavano a quell'universo completamente nuovo. Parte quarta. Notizie di Valodia. Non si era a New York, no, ma fra non molto ci si sarebbe ritrovati a Hollywood sur Seine. Stepan non lo sospettava, diventando il 26esimo socio della cooperativa dei costumisti. Neanche Sonia e Olga, solo Barschi aveva previsto la cosa, che peraltro sarebbe accaduta senza di lui. Barschi non aveva mai rimesso le mani sui fratelli Verdon e neanche un nome sui loro visi, appena intravisti tra Fefè e Tata Bubù davanti al bar di Adrienne, che aveva dimenticato di trasmettere il suo messaggio. Fu dunque gioco forza annunciare in casa Bonnet che i suoi amici cineasti erano bruscamente partiti per le Indie. «Non è una cosa grave», Isidore, li aspetteremo, disse Alex, che la sera prima aveva cenato con loro alla Coupole. Li aspetteremo, ma intanto avremo un bel po' di pane assicurato. Alex diceva la verità e il pane di cui parlava si chiamava proprio cinema. Non era ancora stato consegnato, ma era per via. Non sarà sempre della qualità che Alex aveva sognato quando fantasticava sulla commovente giovane sposa dell'Atalante, ma sarà pane quotidiano e talmente abbondante che la famigliola dei cooperatori gli troverà un sapore di brioche. «Di brioche maledetta!» sghignazzerà Rodriguez da Cherami una sera che Alex gli ebbe raccontato a modo suo i soggetti di certi film che ormai assicuravano il successo della Copé e una sorprendente prosperità a coloro che dividevano i famosi profitti. Profitti ai quali, tra l'altro, non avevano mai creduto veramente, nonostante la firma slanciata di Anita Bourgoin che glieli aveva promessi. Ma i mesi erano trascorsi. I passerotti già cinguettavano, gli arbusti cominciavano a germogliare nel bel giardinetto Chateaubriand come del resto da ogni altra parte. Tanto varrebbe dire che si annunciava la primavera, come del resto tutti gli anni, con la differenza che quella era la primavera dell'anno 1936 e che ci si poteva stupire, come Rodriguez da Cheramy, di quello che sembrava ispirare certi autori. Probabilmente scrivevano dietro porte talmente imbottite, davanti a finestre così rigorosamente murate, che niente dall'esterno doveva mai venire a disturbarli nel compimento degli storici compiti che erano stati loro affidati. Come quelli, per esempio, che consistevano nel raccontare le vicissitudini dell'unico amore di Rasputin o le avventure della figlia naturale di Napoleone III e di una mungitrice di mucche normanna. A una popolazione di cui la metà scandiva «Vogliamo le 40 ore», l'altra la Francia ai francesi, mentre attraverso tutto il paese ci si accingeva a un voto anch'esso storico e ormai imminente. Brioche maledetta, forse, ma l'unico amore di Rasputin subiva le sue vicissitudini in mezzo a una moltitudine di persone imperialmente eleganti e imperativamente vestite di preziose pelli di bestia a causa del rigore del loro clima d'origine. Quanto alla figlia naturale dell'imperatore Napoleone III, dato che la si seguiva dal primo vagito emesso nel bocage normanno fino all'ultimo sospiro emesso sotto un baldacchino castigliano, e che tra questi due avvenimenti essenziali la si vedeva viaggiare, amare, ballare, cantare, correre i più grandi pericoli, conoscere supreme felicità senza mai, mai rimettere due volte lo stesso vestito, non hai che da fare il conto, dirà Alex a titolo di spiegazione. E non ti vergogni? Esclamerà Rodriguez scherzando. Assolutamente no, fece il verso Alex. La Copé non è che una piccola famiglia, ma alla maniera delle grandi famiglie, anche noi abbiamo le nostre opere di carità. Chiedilo a loro, amico, risponderà Alex, indicando la tavola vicina occupata dai gentili falsi cooperatori de Le Crime de Monsieur Lange, che ora sfilavano in viale Chateaubriand per farsi travestire gratis dai proletari. Per Jean Renoir, per la vie à nous e senza beccarsi un soldo. E alla tua famigliola le piace fare la carità? Domanderà Rodriguez. All'inizio non sempre come avrei sperato, mio bravo signore. Poi c'è stato un miracolo. È la vita, disse Rodriguez in spagnolo. Più che a un miracolo, era a una miracolata che Alex pensava quella sera da Cheramy, in Rue Jacob, così lontano dagli Champs-Élysées e da Rue de la Mar. Avrebbe dovuto parlare della signorina Agnès. All'inizio la signorina Agnès aveva molto esitato prima di diventare cooperatrice. Aveva molto sospirato alla memoria di Maddy e molto parlato di tornare da Lanvin, dove continuava a lavorare la sorella. Poi, all'idea di ritrovarsi inginocchiata di nuovo davanti alle donne di mondo per verificare l'appiombo di modelli che spesso non erano più per la loro età, aveva scelto di restare tra i saltimbanchi che continuava a disprezzare altrettanto, ma che rialzavano di tono molti costumi che a loro stavano a meraviglia. Tenuto conto del fatto che non avrebbe più dovuto assoggettarsi all'umiliante commedia dei ritocchi violetti, alla fine aveva risposto di sì, non per iscritto, ma con un sorriso condiscendente e un po' triste, che poteva passare per rassegnazione, disinteresse, se non per generosità. Era stata lei, fra l'altro, a pretendere quasi subito che venisse assunto un altro contabile, oltre al contabile cooperatore, il signor Anselmo, che se ne stava da sempre invisibile dietro la stanza delle pellicce. Invisibile, ma efficiente ed estremamente meticoloso. Si dovevano a lui tutti i conti di maschere bergamaschi, ivi compresa la lunga colonna di spese di rappresentanza della direzione. Si spinsero i mobili nel suo bugigattolo e si aggiunse un tavolo pieghevole su cui un secondo contabile, stipendiato dai cooperatori ma non cooperatore, veniva ogni fine settimana a verificare la giusta ripartizione delle quote alle quali lui non aveva nessun diritto. Era un po' offensivo per il signor Anselmo, ma come aveva detto a Ginetti, i buoni conti fanno i buoni amici. E si era rassegnato, benché dubitasse di poter mai diventare amico della signorina Agnès, che in realtà non desiderava essere amica di nessuno, tutti ormai lo sapevano. Di conseguenza non aveva nessuna ragione per diventare amica di quelli che prendevano a prestito i costumi, i quali si presentavano sempre più numerosi da parte di un certo signor Jean Renoir o Jean Grémillon o Alberto Cavalcanti, di cui ignorava tutto, tranne che erano dei poveri, probabilmente degli amici di Alex, forse, ma comunque senza dubbio alcuno dei profittatori della fatica altrui. Se n'era lamentata, come il signor Anselmo, ma anche lei si era dovuta rassegnare e, in nome di una solidarietà artistica che le era completamente estranea, aveva dovuto accettare di sovrintendere alle prove di qualche vestituccio a fiorellini che Alex aveva disegnato di persona per oscure principianti, alle quali lei si asteneva dal dire buongiorno quando arrivavano, follemente riconoscenti, e arrivederci quando se ne andavano, sempre altrettanto riconoscenti, ma paralizzate dai suoi silenzi. Non c'era neanche nessuna ragione perché si affezionasse particolarmente al nuovo venuto, il pellicciaio transfuga dalla Rue d'Aboukir e protetto da Anita. Si accingeva dunque ad accogliere Stepan con tutte le apparenze dell'indifferenza nel laboratorio dove comunque gli aveva predisposto un angolo pellicceria. Era entrato una mattina di febbraio dietro la signorina Anita e Ginette che avevano fatto le presentazioni. Era pallido. Aveva sorriso gravemente, stringendo le mani. L'aveva trovato bello. E anche le quattro lavoranti del laboratorio che l'avevano dimostrato, dandosi gomitate da quelle ragazzine che erano. La signorina Anita non aveva dato a vedere assolutamente niente. Si avviava verso i 45 anni e il turbamento che l'aveva colta all'ingresso del nuovo socio era di natura molto particolare. In buona parte era dovuto alla somiglianza tra Stepan e Janek. Janek lei non l'aveva visto che una volta o due, fugacemente, sulla porta in viale Chateaubriand, ma aveva ripensato spesso a lui e in modo estremamente preciso. Preciso, scomodo, delizioso e inconfessabile. Non si poteva vivere tutta la giornata accanto a Victoria e Jean senza fantasticare un po' sulle sue notti. Non che lei le raccontasse, ma tutto nel suo modo di muoversi, nei suoi sbadigli di spossatezza appagata, nelle palpebre segnate, le carezze sui seni, i sorrisi assenti, gli arrivi tardivi, certe mattine, tutto era più eloquente di qualunque confidenza salace. Della salacità se ne occupava Lucas e la signorina Agnès aveva sempre fatto finta di non sentirlo. In compenso stava a sentire Maddy, specialmente quando Maddy non era felice, e quando Maddy non era felice, felice lo era stata solo con Alex, la signorina Agnès lo sapeva, si riferiva sempre ai piaceri di Victoria. L'invidiava con tenerezza e senza amarezza, con appena una punta di rimpianto nel condividere solo i resoconti che a volte Victoria faceva unicamente a lei, ma che lei condivideva a sua volta con la signorina Agnès. Benché un tantino li censurasse, la loro potenza evocatrice non ne veniva attenuata per una persona solitaria e dotata di immaginazione come era la signorina Agnès. Lei non faceva mai domande, ascoltava la povera Maddy che si stupiva della fortuna della sua amica, la quale, oltre a ritrovare i soliti piaceri, ne scopriva di inediti nel letto dello stesso uomo e da tanto tempo. È come se avesse 10 amanti. Lui inventa continuamente, diceva. È così con gli slavi. Quando ne hai conosciuto uno non puoi più farne a meno, pare, aggiungeva con un sorriso fatalista. Non bisogna più pensarci, rispondeva la signorina Agnès, che aveva conosciuto solo 2 uomini, di cui peraltro avrebbe fatto volentieri a meno. È vero che non erano slavi. Cosicché certi giorni, quando vedeva il gesso viola tremare nella bella mano stanca di Victoria Jean, capitava anche a lei di sognare il Caucaso, il Volga o la Vistola, come gli altri sognano Venezia. La signorina Agnès aveva dunque protocollato il fratello di Janek come l'erede di una lunga tradizione, come eroe di racconti e leggende deliziose e irraccontabili. Lei si guardò bene dal fargli vedere il proprio turbamento, che crebbe ulteriormente quando Stepan aprì bocca per dire le prime parole, pronunciate con voce tanto bassa che credette di riconoscervi gli accenti e l'accento di Chaliapin. Quegli sconvolgimenti geografici e quelle confusioni etniche divertirono enormemente Alex, Ginette e soprattutto la signorina Anita, alla quale non era sfuggita la sorda e segreta passione della signorina Agnès. A Stepan sfuggì completamente. La signorina Agnese non era donna da buttarsi tra le braccia di un uomo e Stepan ignorò a lungo i motivi della straordinaria sollecitudine che gli dimostrò nel metterlo al corrente dei suoi primi compiti. Ingenuamente l'attribuì allo spirito coupé della cooperativa. Era decisamente il solo, ma le ragazzine furono felicissime di scoprire finalmente che la signorina Agnese poteva anche essere non soltanto arcigna, muta e scontrosa. Era una cosa nuova ed era molto piacevole per tutte. A maggior ragione per Stepan, che non avendola mai conosciuta, arcigna, muta e scontrosa, trovò che aveva l'aria molto servizievole per una persona non più giovanissima e così competente. Competente come dovevano esserlo Olga e Sonia, probabilmente, ma meno carina, meno allegra, più seria in definitiva, soprattutto tra quelle giovani che invece sprizzavano buon umore come Zazà. Alla fine di quella prima giornata, durante la quale aveva dovuto confezionare un gran manicotto di coniglio lontra, guarnito di vere code di vero visone, aveva riveduto tutti i suoi giudizi, messo da parte tutti i suoi preconcetti sul lavoro di travestitore e sulle donne come compagne di lavoro. Lo confessò molto onestamente, arrivando in Rue de la Mare con due mazzolini di viola in mano. Li aveva comprati all'ingresso del metrò George V, nella calca di una folla elegante. Lo splendore quasi dorato delle luci, il frastuono dei clacson e i campanelli del cinema dove si davano film in inglese. Li aveva comprati per farsi perdonare di aver disertato, di essere fuggito tanto lontano da Casa Bonnet e di essere felice da un'altra parte. Dalla benevolenza con cui Olga e Sonia accettarono i suoi mazzolini di viole, Stepan capì che avevano perdonato. La vita era bella. Purché duri, si dicevano tutti, sia in Casa Bonnet che in Viale Chateaubriand. E durava. Ora erano sbocciati i germogli, fiorivano gli arbusti del giardinetto, le apprendiste cantavano nel laboratorio. Una volta la signorina Agnès aveva perfino ripreso un ritornello con loro in Des Roses de Picardie, perché avevano sbagliato le parole. Di solito seguiva il tempo a bocca chiusa, ma era già fantastico, non si era mai vista una cosa del genere prima. Prima di che? Mistero. La miracolata era discreta. La passione della signorina Agnès non era né esuberante né divoratrice. Lei la viveva da sola, la nutriva da sola con dei non nulla, ma dei non nulla che collezionava e che non potevano sfuggirle. La mattina, alzandosi, sapeva che lo avrebbe ritrovato, salvo le domeniche, durante le quali languiva pensando alla sua voce, a tutti quei beati incidenti del lavoro in comune, così favorevoli allo sfiorarsi delle dita nello spessore delle pellicce, al momento delle prove soprattutto. Quei momenti le piacevano tanto che dimenticava di informarsi alla contabilità. Indossatori e indossatrici di pellicce non erano più che manichini con dei corpi vivi sui quali la sua mano aveva appuntamento con quella di Stepan. Che fossero ricchi o mendicanti la lasciava ormai del tutto indifferente. Era questo il miracolo di cui Alex aveva parlato da Cherami. Anche a Stepan piacevano le prove sui manichini vivi. Dopo tanti anni a non sapere mai intorno a quali visi si sarebbero ripiegati i suoi colli confezionati in serie, prendeva gusto a modellarli secondo la faccia del cliente o della cliente. Non riconosceva gli artisti che travestiva da granduchesse o da cacciatori di pellicce del Grande Nord, ma li trovava belli, chiedeva il loro nome e poi riferiva a casa dove Zazà gli dava spiegazioni. Per procedere alle prove, davanti ai grandi specchi molati, la signorina Agnès gli aveva fatto tagliare dei camici nuovi che gli aveva provato di persona. Bianchi, tipo soprabito, con una piega sul dietro a martingala. Gli davano un'aria da dentista. Aveva un cambio di 3 camici che venivano lavati sul posto, perciò non aveva più biancheria sporca da portare a casa. E neanche la gamella. A mezzogiorno, che poteva essere anche l'una o le due, secondo il lavoro da consegnare, la coupé si ritrovava all'altro capo del giardino, in Rue Washington, da Raymond e André, cucina borghese, dove aveva il suo tavolo in fondo. Il primo giorno Stepan aveva mangiato la gamella, ma l'indomani aveva seguito tutti gli altri per vedere. I prezzi erano modici, il piatto del giorno era buono, la cameriera di temperamento allegro. Di modo che la mattina ormai se ne andava con Elia, senza cartella e con le mani in tasca. In realtà sarebbe potuto uscire un po' più tardi certe mattine, non lo fece mai. Ginette Clément li guardava passare tutti e due davanti alla porta vetri, rispondeva al loro saluto, ma usciva di rado sulla soglia. Era contenta che Stepan non fosse più disoccupato, ma poiché né Sonia né Olga avevano ritenuto di doverle spiegare veramente perché lo era stato per un certo periodo, come del resto lo stesso Stepan non l'aveva spiegato a Felix e inoltre non aveva neanche seguito il suo consiglio di iscriversi al sindacato, trovando comunque lavoro, era contenta e niente di più. Si imponeva di essere riservata. Ne parlava pochissimo con Felix, che correva di riunione in riunione, le lezioni erano per aprile, e per niente con Robert, che aveva il baccalaureat in giugno. Maurice, Samy e lui erano diventati praticamente invisibili, inseparabili e appena garbati. Rimanevano Zazà e Josette, tanto poco preoccupate dei loro studi da essere completamente disponibili. Con loro si poteva parlare. Si poteva parlare del girovita di Daniel, Parola, della fossetta di Jean-Pierre Aumont o delle labbra a cuore di Daniel, Darieux. Ginette non lo trovava molto serio, pur rimpiangendo vagamente che questi non si facessero mai vedere in carne e ossa alla Copé del 20° distretto, mentre avevano l'aria di starsene fissi in quella degli Champs-Élysées. Ne aveva avuto la prova. Stepan aveva portato due grandi foto di Pierre Richard Wilm in divisa da legionario, una con dedica alla signorina Elsa Roginski, con l'amichevole ricordo di Pierre Richard Wilm. L'altra, la stessa, per Josette Clément, molto cordialmente, Pierre Richard Wilm. Le modifiche al testo per Josette, confrontato con quello per Zazà, si spiegavano da sole, dopo aver riflettuto, comunque. A Zazà, più vecchia di 4 mesi, spettava il signorina. Per di più, essendo la figlia di un uomo che il grande artista aveva occasione di vedere spesso, le spettava il suo amichevole ricordo. Josette, in compenso, veniva trattata con la lusinghiera, familiarità che conveniva alla sua età e che si riassumeva in quel cordialmente fraterno e senza equivoci.